Mango Tart legge Manacold di Sen Lin Yu. Capitolo 15. Era di nuovo fertile. Il tavolo riapparve in mezzo al pavimento e lei si sentì rassegnata alla vista. Cominciava a sembrarle inevitabile. Si rese conto che si stava abituando alla sua gabbia. Malfoy stava per stuprarla su un tavolo. E il pensiero era diventato un dato di fatto per lei. Persino la parola stupro aveva cominciato a sembrarle debolmente imprecisa. Tutto era meno. Fisicamente e mentalmente il terrore cominciava a svanire mentre la mente la costringeva ad adattarsi. Non aveva la nausea. Il cuore non batteva furiosamente. La sensazione di strappo nello stomaco non era così opprimente da farle pensare che potesse soffocare. La sua mente si modificava alla realizzazione, cercando di farla adattare, di farla sopravvivere. Se la sua situazione avesse smesso di irritarla, sarebbe stata meno propensa a rischiare un tentativo di fuga, meno propensa a provocare Malfoy. Poteva capirlo scientificamente. Dalla prospettiva di una guaritrice poteva spiegarne la fisiologia e la psicologia. Era insostenibile rimanere in uno stato di paura costante, orrore costante, terrore costante. Il suo corpo non poteva mantenerla in uno stato permanente di lotta o fuga. Sarebbe stata costretta ad adattarsi o sarebbe impazzita. La pozione con cui Malfoy l'aveva drogata aveva probabilmente contribuito ad attenuarla. Comprendere la scienza non migliorò la realizzazione. Era la resa peggiore. Sapeva dove la sua mente era diretta. Si stava acclimatando al Menor. Il pensiero la scosse nel profondo. Fissò il tavolo, non sapendo cosa fare. Non che potesse combatterlo, non poteva resistere più di quanto stesse già facendo. Non stava facendo nulla che facesse male. Se avesse prestato attenzione, smettendo di distogliere la mente, probabilmente avrebbe peggiorato la situazione invece di migliorarla. Doveva fuggire. Non poteva fare altro. Doveva fuggire. Doveva trovare un modo. Non esistevano gabbie perfette. Nessuno era perfetto. Doveva esserci qualcosa in Malfoy da sfruttare. Doveva solo scoprire cosa fosse. Doveva farlo. Doveva. Continuò a ripetere a se stessa quella risoluzione mentre attraversava la stanza e si chinava sul tavolo. «Non pensarci», si disse. «Sarebbero potute succedere cose peggiori se si fosse permessa di pensarci». «Scapperò», promise a se stessa. «Andrò da qualche parte dove le persone saranno gentili e calde e io sarò libera». Strinse gli occhi e ripeté la promessa a se stessa, ancora e ancora, finché non sentì la porta scattare. Rimase a guardare le giornate di gennaio scivolare via. Lui venne per 5 giorni. Il 6° giorno arrivò e senza parlare controllò i suoi ricordi. Sembrava preoccupato. Poi venne lasciata a se stessa. Piegò origami, esplorò il Menor, esplorò la tenuta, lesse il giornale. I resoconti sugli sforzi bellici venivano relegati nelle colonne minori. Il fascino pubblico per le surrogate stava lentamente iniziando a inghiottire le pagine della società. Apparivano sempre più frequentemente in pubblico, trotterellavano, venivano portate all'opera, trattate come se fossero animali domestici esotici. Le foto delle loro divise venivano pubblicate insieme ai pettegolezzi. Era il gonfiore o semplicemente la vestibilità dei loro abiti? Fonti senza nome dicevano cose suggestive come «C'è la possibilità che i Flint aggiungano un nome alla razza di famiglia entro la fine dell'anno». La guaritrice Stroud teneva la bocca chiusa con i giornalisti, il che servì solo come combustibile per ulteriori speculazioni. Gli attacchi di panico di Hermione sembravano quasi una cosa appartenente al passato. Aveva misurato i suoi limiti e cercava di non superarli. Quando rimaneva concentrata e si occupava di studiare ritratti e di esplorare il Menor e i terreni, riusciva a rimanere calma. Quando cercava di non pensare alla guerra e a come tutti fossero morti. a poco era diventata così brava a tenersi occupata che si dimenticava momentaneamente che stava dimenticando. Respirava e sperimentava un momento che non la faceva sentire spezzata, addolorata o disperata. Quando era sola, la solitudine si estendeva davanti a lei. Il senso di colpa che la colpiva un attimo dopo era freddo e amaro come l'acqua del mare. Si bloccava per un momento e poi ingoiava il grumo di orrore che aveva in gola e rinnovava il suo voto di fuga, ma non poteva scappare. Esplorò il Manor da cima a fondo, trovò un set di scacchi da mago e giocò delle partite contro se stessa. Costruì torri di carte con un mazzo che trovò in un cassetto. Visitò i cavalli. Non c'era modo di scappare. Cercò di trovare Malfoy, ma non ci riuscì mai. Non sapeva se fosse ancora nel Manor. Poteva essere fuori o solo dietro una porta che lei non poteva aprire. A volte le sembrava che lui la stesse evitando. Non aveva idea di come avrebbe potuto scappare. Cominciò a vedere Astoria con sempre maggiore regolarità. Il familiare clic di tacchi in lontananza la fece diventare abile a sparire prontamente dietro una tenda o nei passaggi della servitù. Ovunque c'erano spioncini nascosti. Sospettava che, visto l'utilizzo degli elfi domestici, quei piccoli tunnel fossero sempre stati usati da loro, principalmente per spiare. Il Manor ne era pieno. Alcuni erano evidenti e altri estremamente ben nascosti. Hermione li trovò tutti. Ogni volta che le dimensioni di una stanza le sembravano vagamente sbagliate, si metteva al lavoro, battendo leggermente lungo le pareti e premendo ogni nodo del legno, torcendo ogni applique e vite, finché non sentiva qualcosa cedere. Alcune apparivano magicamente, altre erano state abilmente costruite usando ingranaggi e mobili rotanti. Era raramente sola quando la vedeva. Era sempre accompagnata dallo stesso uomo scuro e dalle spalle larghe che Hermione aveva intravisto a Capodanno. Divenne presto evidente che sia Astoria che il suo amante avessero qualche tipo di problema con i letti. La prima volta che li incontrò era quasi nuda e schiacciata contro una finestra del salotto. Sembrava che stessero cercando di fare sesso in ogni stanza del Manor. Fece del suo meglio per evitarli. Non le piaceva particolarmente il pensiero che Malfoy usasse i suoi ricordi per guardare mentre sua moglie veniva scopata da ogni angolo. Prese in considerazione l'idea di guardare solo per fargli dispetto. Ma poi lo scartò. Non sembrava preoccuparsi di quello che Astoria faceva. Probabilmente non avrebbe avuto alcun effetto su di lui. Sarebbe stato solo estremamente disagevole per Hermione. Ogni volta che si imbatteva in Astoria a metà coito, quindi, distoglieva rapidamente lo sguardo e scivolava via. Per un po' si limitò a intravedere la coppia amorosa mentre fuggiva, ma alla fine li incontrò entrambi completamente vestiti. Stava vagando all'ultimo piano dell'ala nord quando li vide passeggiare lungo il sentiero di ghiaia che costeggiava il labirinto di siepi. Astoria stava parlando animatamente e nel mentre l'uomo accanto a lei si voltò e fissò l'ala nord. Finalmente intravide il suo volto. Graham Montague. Guardò giù scioccata mentre lui scrutava attentamente le finestre inferiori dell'ala nord. Quando inclinò ulteriormente la testa all'indietro, Hermione fece un brusco passo indietro e sparì dalla vista. Il cuore le batteva improvvisamente a mille. Graham Montague era l'amante di Astoria. Montague, che si era imbattuto per caso in Hermione durante una festa di Capodanno, che si aspettava che Hermione lo riconoscesse immediatamente. Aveva una relazione con Astoria. Visitava il Manor quasi ogni giorno. Guardava verso le finestre dove c'era la stanza di Hermione con un'espressione di intensa determinazione. Era tutta una coincidenza. Era possibile che fosse una coincidenza. Passò in rassegna tutti gli scenari che le venivano in mente. Cosa sapeva di lui? Serpe Verde, ex membro della squadra di Inquisizione. Ferito gravemente da Fred e George. Ad un certo punto, durante la guerra, Hermione lo aveva conosciuto e dimenticato. Aveva una relazione con Astoria. Sembrava che stesse cercando lei. Era un mangiamorte? Non lo sapeva. A meno che non avesse lavorato al ministero, avrebbe dovuto unirsi all'esercito di Voldemort in qualche modo. Sembrava troppo in alto socialmente per esserne rimasto semplicemente fuori e non aveva dimostrato molta familiarità con i funzionari del ministero alla festa di Capodanno. Riprese tutto quello che riusciva a ricordare della notte. Era stata così assorta nel guardare Malfoy e poi le surrogate che non aveva collegato che Astori e Montague erano scomparsi nello stesso momento. Quando l'aveva osservato più tardi, stava conversando, ma le era sembrato più familiare con Marcus Flint e Adrian Pusey. Nonostante la sua memoria incerta riguardo alla guerra, era abbastanza sicura che Flint e Pusey erano stati, l'ultima volta che aveva controllato, mangiamorte di medio livello e senza marchio. Guadagnare un marchio nero era considerato un'importante distinzione, un'ammissione nel più selezionato circolo interno di Voldemort. Man mano che la presa di Voldemort sull'Europa era diventata più sicura, aveva marchiato sempre meno seguaci. Quindi, la conclusione logica era che Montague fosse un mangiamorte. Marchiato o non marchiato, non lo sapeva. Ma questo non spiegava perché avrebbe avuto qualche interesse o conoscenza con Hermione. A meno che avrebbe potuto. Aveva paura anche solo di contemplare l'idea, di permettere a quel pensiero di esistere nella sua mente dove Malfoy avrebbe potuto trovarlo, ma non poteva impedirsi di pensarlo. Poteva essere stato una spia della Resistenza, poteva esserlo ancora. Poteva essere quello che aveva cercato di comunicarle prima di andarsene con Malfoy. Cominciò a osservare attentamente Astori e Montague quando non facevano sesso. Li spiava dai passaggi segreti e si convinceva sempre di più che Montague aveva altri motivi per essere nel Manor. Era estremamente interessato alla casa e i suoi occhi vagavano stranamente ovunque ogni volta che Astori era distratta. Soppesò il rischio di provare ad avvicinarlo. Era raramente solo. Astoria non sembrava mai allontanarsi più di qualche metro da lui. Nelle poche occasioni in cui lo vedeva da solo, esitava. Le sembrava così poco familiare. Sicuramente, se fosse stato qualcuno di cui si fidava, lo avrebbe sentito istintivamente. Cercò di ragionare con se stessa. Se fosse stato un membro della Resistenza e lei si fosse avvicinata prematuramente, avrebbe potuto esporlo. Se non avesse avuto modo di rimuovere le manette, sarebbe stato tutto inutile. Decise di prendere tempo e continuare a guardare. Meglio sospetti non confermati che qualcosa di concreto che Malfoy potesse ottenere da lei. Continuava a vacillare. La guaritrice Stroud arrivò e scoprì che Hermione, ancora una volta, non era incinta. La sua espressione mentre esaminava il risultato degli incantesimi diagnostici era di irritazione. Lei fissò con determinazione l'orologio sul muro. «Perché i tuoi livelli di sodio sono così bassi?» chiese, dopo aver eseguito diversi altri test. Hermione le diede un'occhiata. «Non mi danno il sale con il cibo?» «No?» disse la guaritrice Stroud in tono sorpreso. «E cosa ti danno da mangiare?» Hermione scrollò le spalle. «Cose bollite, verdure, carne e uova, e pane di segale.» «Perché?» «Ho dato per scontato che fosse quello che avevano l'ordine di darmi. Non è che abbia la libertà di mettere in discussione qualcosa», disse Hermione, freddamente. «Dovresti seguire una dieta equilibrata. E la cosa include il sale», disse la guaritrice infastidita. Si allungò in avanti e batté la manetta sul polso di Hermione con la punta della bacchetta. Un minuto dopo, Malfoy entrò con un cipiglio. «Hai chiamato?» disse. «Sì, c'è un motivo per cui non le viene dato il sale», rispose la guaritrice. Malfoy sbatté le palpebre. «Sale. Dice che il suo cibo è sempre bollito e senza sale. La cosa sta cominciando a influenzare i suoi livelli di sodio», disse la guaritrice Stroud, gli occhi stretti mentre fissava Malfoy. Malfoy alzò le sopracciglia in apparente sorpresa. Gli elfi avevano l'ordine di fornirle i pasti. Ho dato per scontato che mangiasse come facciamo io e Astoria, disse. Poi serrò leggermente la mascella e strinse gli occhi. Astoria è responsabile dell'approvazione del menù. Scoprirò cosa è successo. La prego, lo faccia. Il signore oscuro sta diventando impaziente per la mancanza di progressi. Non vogliamo che qualcosa interferisca. Infatti, disse Malfoy con freddezza, incontrando lo sguardo della guaritrice. Ora, se non c'è altro, devo tornare al mio lavoro. Certo, Ayriv, non la tratterrò, disse lei, dandogli un'ultima occhiata prima di voltarsi di nuovo verso Hermione. Quella sera ricevette un pasto completo con contorni e un'insalata fresca, condimenti e, cosa più importante per lei, una saliera. Non si era resa conto di quanto le fosse mancato il sale finché non l'aveva avuto di nuovo. Col senno di poi, non fu esattamente sorprendente rendersi conto che Astoria aveva deciso di ordinare agli elfi domestici di dare ad Hermione cibo da prigione? Da contadini? Non era nemmeno sicura di cosa fosse quello. Quella donna era strana. La sua indignazione per Hermione sembrava manifestarsi in qualunque strano modo pensasse di poterla fare franca. E l'aveva fatta franca per 3 mesi. Circa 270 pasti. Non volle mai più mangiare un'altra verdura bollita. Malfoy entrò nella sua stanza quando lei aveva quasi finito di mangiare e si avvicinò per esaminare il cibo nel suo piatto. «A quanto pare sono obbligato ad assicurarmi personalmente di tutto», disse con un cipiglio dopo che il pasto aveva apparentemente soddisfatto le sue aspettative. «Avresti dovuto dirmelo». «Se dovessi iniziare a lamentarmi, il cibo non sarebbe la prima cosa che tirerei fuori», rispose Hermione, infilzando un pomodoro con la forchetta. Lui le fece un sorriso sottile. «No, non credo che lo sarebbe». Si avvicinò alla finestra e fissò la proprietà mentre lei finiva di mangiare. Si prese intenzionalmente il suo tempo e recitò mentalmente tutte le irritanti canzoni ripetitive che aveva imparato alle elementari. Mentre finiva, gettò uno sguardo verso di lui. Poteva vedere il suo profilo e notò come i suoi occhi diventavano brevemente sfocati. «Spero che tu muoia della morte più lenta e orribile che sia mai stata concepita, Malfoy», ringhiò immediatamente nella sua mente. Dopo un momento, lui sbatté le palpebre e guardò verso di lei, senza espressione. Lei lo guardò senza scusarsi. «Annotato», disse, e poi fece un gesto verso il letto. Hermione si avvicinò con rassegnazione e si sedette sul bordo prima di guardarlo, senza battere ciglio, mentre i suoi freddi occhi d'argento affondavano nella sua coscienza. Finiva sempre sulla schiena quando finiva di scorrere i suoi ricordi. Guardò più volte il suo ricordo di Ginny. Poi la guardò mentre spiava e si interrogava su Graham Montague. Si ritirò dalla sua mente. «Montague ha ricevuto il marchio nero dopo la battaglia finale», disse fissandola. «Mi è stato detto che era un riconoscimento per gli eccezionali servizi che aveva reso», sogghignava mentre lo diceva. «Anche tu hai fornito servizi eccezionali?» chiese lei, guardando Malfoy. Non aveva idea se lui le stesse mentendo su Montague, se si fosse preoccupato di farlo. Lui la fissò e fece un sorriso crudele. «Più eccezionale di quello di Montague», disse. Poi il sorriso si spense. Continuò a guardarla, studiando attentamente il suo viso, e poi fece scorrere gli occhi sul resto di lei. Il suo sguardo sembrava più morbido e scuro del solito. Si rese conto tardi di essere sdraiata supina su un letto davanti a lui. Sentì la pelle pizzicare. Si mise a sedere rapidamente. Lui la fissò per un altro momento prima di distogliere lo sguardo e guardare il muro dietro di lei. «Se hai delle speranze che riguardano Montague, dovresti lasciarle morire», disse freddamente. Poi si voltò e se ne andò. Una settimana dopo, Hermione fece un nuovo sogno su Ginny. Era in piedi nella sua stanza da letto a Greenwood Place quando Ginny entrò. «Sei tornata presto?» disse, guardò l'orologio. «Giornata fortunata», disse Hermione. «Bene», rispose Ginny, leggermente impacciata. «Volevo chiederti una cosa». Hermione aspettò. Ginny si tirò nervosamente i capelli. Il viso era immacolato. «Io, beh, tu ovviamente sai di me, Harry», disse. Hermione fece un breve cenno. «Giusto, bene. Il fatto è che voglio stare attenta. Ho usato l'incantesimo, ma c'è qualcosa nei Priuet. Non sono come le altre famiglie magiche. Rimangono incinte. Sempre. Io e Ron siamo stati entrambi incidenti dopo la nascita dei gemelli. Quindi mi chiedevo se potessi farmi una pozione contraccettiva. Se ne hai tempo. Ho sempre fatto schifo con le pozioni. Se non vuoi va bene. Posso chiedere a Padma. So che sei terribilmente impegnata. È solo che non volevo che pensassi che... non volevo chiedertelo». «Certo. Stasera devo comunque preparare un paio di cose. Sarà facile da includere. Hai una preferenza sul gusto? Quelli più efficaci non hanno un sapore molto gradevole». «Non mi interessa il sapore se funziona», disse Ginny coraggiosa. «Beh, ho già qualche fiala. Posso dartela ora se vuoi». «Davvero?» Ginny sbatté le palpebre e fissò Hermione con sospetto. «Sei...» Poté vederla mentre faceva una lista di possibili uomini nella sua vita. «Non stai con Piton, vero?» Ginny si strozzò all'improvviso. Hermione rimase a bocca aperta. «Dio, no!» ha balbettato. «Sono una guaritrice! Tengo un sacco di cose a portata di mano. Santo cielo, cosa... perché mai dovresti...» Ginny sembrava leggermente imbarazzata. «È solo che è l'unica persona con cui sembri parlare a lungo, a parte Fred, che sta con Angelina. Con tutti gli altri finisci solo per litigare. E non nel senso di facciamo del sesso bollente dopo». «Questo non significa che me lo stia scopando», mormorò Hermione, sentendo la faccia prendere fuoco. «È un collega. Mi consulto con lui per le pozioni». «Sembri sola», disse Ginny, dando Hermione una lunga occhiata. Lei alzò la testa e Ginny continuò. «Non parli con nessuno ad oggi», disse. «Prima stavi sempre con Ron e Harry, ma anche prima che tu partissi per diventare guaritrice, sembravi sempre più sola. Ho pensato che forse avessi qualcuno. Certo, Piton sarebbe stata una scelta strana per un sacco di motivi, ma è una guerra. È troppo per chiunque da gestire da solo. La scopata catartica è una cosa che fa per Ron, non me», disse Hermione rigidamente. «Inoltre non è che stia combattendo». Ginny la guardò pensierosa per un momento, prima di dire: «Credo che stare in infermeria sia peggio che stare nel campo di battaglia». Hermione distolse lo sguardo. A volte si era chiesta se potesse essere così, ma non era mai stata una domanda da poter rivolgere a qualcuno. Ginny continuò: «Ci penso ogni volta che sono lì. Sul campo tutto è così immediato. Anche quando qualcuno è ferito, ti basta smaterializzarti via e poi tornare indietro. A volte vinci, alcuni li perdi. A volte vieni colpito e tu rispondi ai colpi e hai giorni per riprenderti se va male o se il tuo compagno di duello muore. Ma in infermeria ogni battaglia sembra una sconfitta. Sono sempre più traumatizzata dopo essere stata lì dentro che quando combatto». Hermione rimase silenziosa. «E non hai mai tempo libero», continuò. «Sei in servizio per ogni battaglia. Non possono mai lasciarti in pace, nemmeno per lasciarti soffrire. So, da Harry e Ron, che spingi ancora per le arti oscure quando vai alle riunioni dell'ordine. Non sono d'accordo, ma lo capisco. Mi rendo conto che tu vedi la guerra da una prospettiva diversa da quella del resto di noi. Probabilmente quella peggiore. Quindi sto solo dicendo che se tu avessi qualcuno, sarei davvero felice per te, anche se fosse Piton. Hermione sgranò gli occhi. Probabilmente dovresti smettere di parlare ora se vuoi ancora quella pozione contraccettiva, disse con un'occhiataccia. Si svegliò in uno stato di shock. Ginny e Harry erano stati insieme. Ginny e Harry erano stati insieme e Hermione non lo ricordava. Non ce n'era nemmeno una traccia nei suoi ricordi. L'aveva dimenticato del tutto. Il rapporto tra Harry e Ginny era stato qualcosa che lei aveva dimenticato. Intenzionalmente. Era questo che aveva nascosto. Ginny era ancora viva quando Hermione fu imprigionata. Non aveva partecipato alla battaglia finale. Non era stata torturata a morte insieme al resto dei Weasley. Aveva pensato che Ginny fosse ancora viva finché Anna non le aveva detto dell'Irv. Se Voldemort avesse saputo dell'importanza unica che aveva per Harry, la sua morte sarebbe stata orribile, molto peggiore di quella che era stata inflitta al resto dei Weasley. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggerla, avrebbe eliminato i suoi stessi ricordi per cercare di risparmiarla. Per Harry, per Ginny stessa. Era stata un'amica costante durante la guerra. Non stretta, ma sempre costante. Anche quando si erano sviluppati scismi in molte delle altre relazioni di Hermione. Lei, Luna ed Hermione avevano dormito insieme a Grimmauld Place fino alla morte di Luna. Ma ora era morta. Malfoy le aveva dato la caccia e l'aveva uccisa. Si sentiva sul punto di vomitare. Era stato davvero tutto così inutile? Aveva nascosto il suo passato per proteggere Ginny senza sapere che era già morta. Era stata consegnata a Malfoy e trascinata davanti a Voldemort e tutto per proteggere qualcuno che era già morto. E Piton! Aveva cercato con tutte le sue forze, dopo il suo rilascio, di non permettersi di pensare a Piton. Aveva pensato che fosse stato dalla loro parte. L'aveva addestrata a diventare una creatrice di pozioni. Aveva dedicato innumerevoli ore del suo tempo personale a farlo. Poco dopo che Silente era stato ucciso, era scesa nei sotterranei fino alla porta di Piton e aveva chiesto con voce ferma: «Se ci fosse una battaglia, quali pozioni dovrei saper fare? Che non riuscirei a trovare da comprare da nessuna parte?» Invece di sogghignare e sbatterle la porta in faccia, lui l'aveva invitata nel suo ufficio. Fino alla chiusura di Hogwarts aveva passato ogni sera fino a notte fonda nel suo ufficio, preparando una pozione complicata dopo l'altra. Quando avevano abbandonato Hogwarts, lui aveva continuato a insegnarle a Grimmauld Place. L'uomo enigmatico sembrava lentamente scongelarsi nella pura stanchezza mentre l'addestrava. Non aveva energie per gli insulti. Era duro ed esigente, ma generoso con la conoscenza. Sembrava essere una delle poche persone che si stava preparando per una lunga guerra. Le infilava tra le braccia pile di testi di pozioni personali annotati da leggere e le disegnava mappe di dove procurarsi gli ingredienti quando ci sarebbero state poche fonti da cui comprare. Nel cuore della notte e al mattino presto la portava con sé per tutta l'Inghilterra. Si materializzava da un luogo all'altro per insegnarle come trovare le piante e raccoglierle in modo che la loro efficienza rimanesse alta. Le insegnava come costruire trappole e catturare e uccidere umanamente gli animali e le creature magiche necessarie per gli ingredienti delle pozioni. Non le disse nulla quando pianse dopo aver ucciso il suo primo Murtlap. L'aveva addestrata fino a quando non si era qualificata abbastanza da essere maestra di pozioni. Era stato il suo più strenuo difensore durante la guerra. Charlie Weasley l'aveva disprezzata fino a odiarla per essersi schierata con Piton piuttosto che con chiunque altro. Lei aveva difeso i metodi di Piton e tutto ciò che faceva come mangiamorte come necessario. Lo aveva protetto quando Harry e Ron volevano farlo rimuovere dall'ordine. Lo aveva considerato più che un collega o un mentore. Era stato qualcuno di cui si era fidata implicitamente. Era tutto uno stratagemma. Un abile stratagemma. Senza Silente a garantire per lui, aveva coltivato una nuova campionessa per sé. Se l'era attorcigliata al dito, aveva comprato la sua lealtà con la padronanza delle pozioni. Poi, una volta vittorioso, l'aveva cacciata via. aveva avuto la possibilità di risparmiarla dall'essere inclusa nel programma di ripopolamento e aveva rifiutato. Era partito per la Romania e l'aveva lasciata per essere fatta riprodurre, essere violentata. Era un tradimento così amaro e profondamente personale che riusciva a malapena pensarci. Si alzò e lesse il giornale.